Milan e Manera, siete veramente uno spettacolo. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Signori, sono le 9:06 minuti e siamo qui per una puntata ricchissima oggi di temi da chiusura di settimana, proprio per lasciarvi con tanti spunti, speriamo interessanti, su cui riflettere. Questo venerdì, sabato, domenica ci siamo. Oggi, che spettacolo, che spettacolo. È così, ragazzi. Oggi c'è anche Leonardo Manera in arrivo. Signori, spero che abbia avuto la cortesia almeno di togliersi la vestagliona prima di arrivare qua. E vediamo un po'. Alle 9:07 minuti ci siamo con Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi in redazione e il nostro Alpino in regia. Voi potete scriverci al 349-238-6666, WhatsApp, SMS, audio o chiamarci all'800 24 00 24. Ieri vi ricordate che abbiamo parlato dello stretto di Messina, del ponte, o meglio no, noi abbiamo parlato del tunnel, avevamo l'ingegner Sacca, quello che vuole portare avanti il tunnel. Accidenti, direi che, come dire... ci sono stati degli sviluppi, ma ne parliamo tra poco, come parleremo di migranti. Purtroppo avete sentito anche una tragedia, un migrante che è fuggito in un centro è stato travolto e ucciso, tante altre tematiche. I will not be easy and it will not be easy. E poi ovviamente gli aggiornamenti sulla vicenda coronavirus. Avete saputo la notizia di questa mattina che ha terremotato tutti quanti, è che Silvio Berlusconi è stato ricoverato per accertamenti a San Raffaele. Sono partite sui social ovviamente le varie posizioni, mettiamola così, le varie battute, le varie è lì al San Raffaele. D'altronde aveva detto di stare quasi bene, abbastanza bene, e poi ha detto e ha fatto sapere evidentemente che aveva avuto la febbre e non era sintomatico come si pensava da alcune notizie dei giornali. Comunque Berlusconi ricoverato, e invece io oggi vi voglio segnalare a questo proposito quello che dice il professor Remuzzi, che cito perché, se ricordate bene, con lui abbiamo aperto questa stagione di Uno Nessuno 100.000 lunedì. Oggi fa una lunga intervista al Corriere della Sera, intervistato da Marco Imarisio. Ve la riassumo per piccoli punti. Questa è la posizione del professor Remuzzi, che dice riguardo al coronavirus. Rimettiamo nel cassetto ansia e isteria. La fase epidemica è sostanzialmente finita. Ora siamo nella fase di vigilanza. Il rischio di infettarsi, e qui, ragazzi, scusate, cosa vi avevo citato qualche giorno fa? Il rischio di infettarsi è simile a quello di cadere in motorino. Io vi avevo detto, però, perché quando prendete il motorino non avete paura, non avete lo stesso timore? Il rischio di infettarsi, dice Remuzzi, è quello simile a quello di cadere in motorino. È minore dei rischi di una immersione subacquea. Sono 44 probabilità su un milione. 44 probabilità su un milione il rischio di infettarsi. All'interno di queste 44 probabilità su un milione, cioè se uno si infetta, all'interno di queste probabilità c'è una probabilità su 100 di morire. Ci spaventiamo, dice Remuzzi, per numeri, i positivi, che non significano moltissimo. Più ne cerchiamo, più ne troviamo. Confondiamo i contagi con la gravità della malattia. Abbiamo al momento in Italia 8.000 posti di terapia intensiva, 100 sono occupati per Covid, l'1,5%. Se anche si arrivasse al livello di contagi della Francia, arriveremo a occupare il 5% della disponibilità totale dei posti di terapia intensiva in Italia. Dice infine Remuzzi, basta emotività, non è una partita di calcio. Ma guardate che allora tra Remuzzi, perché poi giustamente arriva la domanda finale, ma lei è negazionista? Ma assolutamente no, il professor Remuzzi è un medico, e guardate che non sono quegli scriteriati che sabato andranno in piazza a Roma dicendo, non lo so, le loro follie, parleranno di complotti, di Covid che non esiste, di Covid creato da qualcuno, di Covid per controllarci, per instillarci chip, folli, follie. Però dobbiamo abituarci a pensare che tra coloro scriteriati che andranno in piazza a Roma e che forse meriteranno, anzi forse meritano un intervento dalla regia, quelli che andranno in piazza Roma lì, cioè avete la faccia come il culo. È partito un premio Giachetti preventivo e globale. Vabbè, tra coloro che andranno in piazza sabato dicendo che non esiste niente del Covid e i terrorizzati, c'è una vasta gamma di persone che pensano di ragionare, cioè tra gli estremi che pensano di ragionare, di analizzare i dati e di valutare la situazione senza emotività, ha detto appunto il professor Remuzzi. Devo dire una cosa, mi ha colpito questa notizia, vorrei sottoporla a voi, sulla questione dei lavoratori a casa in smart working che dovessero essere positivi ma asintomatici. La notizia che è arrivata, che è confermata dal decreto Cura Italia, dalle normative INPS eccetera, non possono lavorare, cioè non potete accedere al computer dell'ufficio se siete a casa, siete positivi o anche a questo punto in attesa di tampone, siete come in malattia, non avete niente, non avete un sintomo, non manifestate e volete lavorare, non potete. Ma io, Alpino, qua se succede a me che faccio un tampone sono positivo, o a Cruciani o a Barisoni, ma chi è che va in onda? Cioè se sono a casa asintomatico va in onda Manera. Manera si deve presentare alle 8 a condurre. Cioè, chi è che va in onda? Cioè, io dico, ma scusate, io non ho niente, sono asintomatico, voglio. Fatemi intervenire da casa. Si può con la tecnologia? Oh, ma quando lavori? Non si può. Chi è che va in onda per 14 giorni? Ma sto bene, non ho sintomi. Vabbè, cosa ne pensate? È tutta una follia. Cosa ne pensate? C'è poco da pensare, è così. Non è che è stato stabilito che è così. Ieri invece trovate su tutti i giornali la vicenda del ponte sullo stretto di Messina, le ironie dopo che il ministro Paola De Micheli ha annunciato l'istituzione di una commissione. Ragazzi, hanno istituito una commissione per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria. Cosa si fa in Italia subito? Quante ce ne saranno state di queste commissioni? Comunque hanno fatto questa commissione su Repubblica, ci sono tutti i nomi. Guarda qua, ci sono, vabbè, alcuni funzionari dei ministeri e poi i professori. Ferruccio Resta, rettore del Policlinico di Milano, il Politecnico di Milano, Caterina Di Maio che insegna geotecnica a Basilicata, Armando Carteni che insegna trasporti a Napoli, Gabriele Malavasi, trasporti da Sapienza, Tiglio Toscano, ma non c'è l'ingegner Sacca. Non c'è l'ingegner Sacca, che è colui che ieri avevamo al telefono e sta portando avanti l'idea del tunnel. Guarda qua, anche Sebastiano Messina su Repubblica dice che il tunnel è un'idea che il premier Conte sembra avere accantonato. No, ma il tunnel, ma ne abbiamo parlato ieri per un quarto d'ora, io volevo invitare ancora il professor Sacca. Però tunnel che no, entusiasmo smorzato per il premier, dice Repubblica. C'è una commissione e poi c'è tutta l'ironia legata al fatto che Paola De Micheli ha detto che l'opera servirà a collegare Sicilia e Calabria su ferro, strada e pista ciclabile. Vabbè, ma qui io non capisco l'ironia. È chiaro che se fai un ponte di 4 km ritaglierai uno spazio per una pista ciclabile, no? Siamo nell'epoca di Greta Thunberg, il problema è fare il ponte. Comunque, talmente ironia si è scatenata, che vabbè, il ministro Provenzano ha parlato di catapulta, ci manca la catapulta. Come una catapulta! E Massimo Gramellini oggi ne scrive sul Corriere della Sera. Appena la ministra Paola De Micheli ha ipotizzato di collegare Scilla e Cariddi con la pista ciclabile, è partita una sarabanda di battute. Uno ha parlato di teletrasporto, un altro perché non la catapulta, la funivia, la Meloni ci ha dato dentro. Il migliore però rimane Osho, se non per ponte tibetano. Solo che è l'unico Osho tra tutti costoro pagato per far ridere. Qualcuno ha ricordato la maledizione del ponte di Messina, che Conte con la consueta riservatezza vorrebbe trasformare in tunnel. Chiunque ne parli precipita nel dimenticatoio o nel ridicolo. Non sottovaluterei anche Nanni Moretti, la sua celebre battuta: D'Alema di qualcosa di sinistra e si aggira da anni come lo spettro di Banco tra gli impauriti liderini democratici, preoccupati di non apparire mai abbastanza in linea con qualunque linea, purché alla moda. E mi immagino la povera De Micheli che, dopo aver elencato sui social la possibilità di collegamenti su ferro e strada, si rende conto che ferro e strada evocano scenari consumistici, inquinanti, trampiani, e provvede a ingentilire il quadro con la pista ciclabile per consentire a Greta Thunberg di andare finalmente a scuola in un liceo di Messina. Signore, invece adesso parliamo di una cosa molto molto seria. Io ho letto con attenzione e anch'io a mia volta scioccato, come si dice lui, l'intervista che Giusy Fasano ha fatto al primo ospite che abbiamo sul Corriere della Sera ieri, al professor Cristoforo Pomara, che saluto, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno professore. Buongiorno, grazie a voi, buongiorno. Lei insegna medicina legale a Catania, ma ha diretto, diciamo, questa task force della Regione Sicilia per valutare le condizioni degli hotspot e centri di prima accoglienza dei migranti. Notizia di questa mattina: in fuga da uno di questi centri, abbiamo sentito il giornale radio, un ragazzo eritreo è stato travolto e ucciso da una macchina. Non è, credo, uno dei centri che lei ha visitato nei giorni scorsi, professor Pomara, ma non cambia granché la situazione. Che condizioni ha trovato? Perché si è detto scioccato delle condizioni in cui vengono tenuti questi uomini e donne? Guardi, mi sono detto scioccato perché ovviamente ho ben consapevolezza del fatto che parliamo di tragedie umane, che quindi sono vite che sono state salvate dal mare e dalla probabile morte, però nel momento in cui trovano accoglienza, ospitalità all'interno di centri dedicati, ovviamente devono essere garantite delle norme, che sono delle norme di civiltà sanitaria che è un paese moderno, qualsiasi paese moderno, anche il nostro, deve assolutamente garantire a queste persone. Ora, quando tu hai un piccolo hotspot che è tarato per 192-220 persone, e devo dire con criticità anche, che abbiamo rilevato, per 192-200 persone, te ne trovi 1200, lei capisce bene che non c'è bisogno di nessuna laurea o di qualsiasi particolare specializzazione per comprendere che vi sono dei problemi lampanti. Allora, sì, il primo problema è che insistiamo su un'isola dove, quando ho fatto l'ispezione io, eravamo a circa 32 gradi al sole. Queste persone giacciono al sole su giacigli di gomma piuma o di spugna, un materiale insomma altamente infiammabile, accatastati gli uni sugli altri in mezzo ad alberi. Puoi immaginare cosa succede se vi è un rischio di incendio o se vi è un incendio. Sì. Ho fatto più volte l'esempio per far comprendere quello di cui si parlava, al di là delle condizioni sanitarie che sono certamente precarie, quelle legate al Covid, ma tutte le malattie trasmissibili. Ho fatto l'esempio delle tragedie che avvengono quando, per lo spostamento di masse, ovviamente c'è la cosiddetta, in medicina legale, morte tra la folla. Mm-hmm. Ecco, quella è una condizione di rischio estremo ed è reale ed è tangibile. No, ma è chiaro. Quindi, che professor Pomara, la situazione che credo anche lei abbia suggerito è questa: non si deve arrivare a questa situazione. Quindi arrivano, bisogna essere pronti a smistarli, uso questa parola brutale, ma per dire, no, per far capire. Trasferirli. Qui Io dico a tutti gli ascoltatori, leggete oggi Domenico Quirico sulla Stampa, inviato della Stampa, lui 9 anni fa, per vedere concretamente di che cosa stiamo parlando, l'ha fatta quella traversata, mischiandosi con i migranti, arrivando a Lampedusa, fingendosi un migrante, e dice 9 anni dopo, questa è la verità, che la politica, da destra, da sinistra, Non ha risolto una situazione che a sto punto forse, professore, è irrisolvibile. Cioè io non... Ma io ovviamente da uomo di medicina non conosco la parola irrisolvibile nel momento in cui mi si dà da valutare una condizione. Ed infatti l'obiettivo che ci siamo dati con i colleghi che fanno parte della task force è anche quella di indicare delle soluzioni. È ovvio che, come dice lei, alla base vi è il recepimento di suggerimenti che sommessamente la task force darà, che poi deve essere tradotta in azioni concrete. Però ecco, immaginare il trasferimento immediato di uomini e donne non mi sembra un grosso problema. Immaginare la messa in opera di lavori che garantiscano degli ambulatori in grado di testare le condizioni sanitarie delle persone che arrivano, e quindi diciamo nell'arco di 72 ore avere un inquadramento comunque clinico di base sufficiente per poterli gestire, non mi sembra una cosa assolutamente infattibile. Cioè, se il problema è, poi le soluzioni le trova la politica, ma se il problema è che è un'isola e che quindi hanno individuato adesso delle navi di trasporto, attrezzassero l'isola per avere un accoglimento costante di queste navi, tale da poter garantire. No, ma sono tutte cose di buon senso. Evidentemente, siccome non credo che il politico di turno non voglia risolvere questa situazione e goda nel trovarsi con questa periodica emergenza, non lo so, c'è qualcosa, qualche inghippo che lo impedisce. Lei ha incontrato persone positive al Covid, ragazzini che hanno detto non mettetemi in prigione, almeno sono più sicuro che stare in questo posto, no? È così. Vuol dire, una soluzione deve essere trovata. Innanzitutto dico, ma ne dico una banale: se ci sono dei locali resi inagibili, mi dicevano, da un incendio circa 4-5 anni fa, che comunque possono dare ospitalità a un numero X di persone, ma insomma, intanto rimettiamo a posto l'agibilità di quei locali e potenziamo l'esistente. È ovvio che qualcuno oggi, ed è il compito nostro rimetterlo nero su bianco, avrà nero su bianco delle criticità di tipo sanitario, di tipo logistico evidenziato, ma anche delle soluzioni. Abbiamo per esempio presentato, perché nel team ho voluto un ingegnere, abbiamo presentato una soluzione di rimodellamento dei posti letto sull'hotspot di Pozzallo. Sono delle soluzioni immediate, di buon senso. Se devi cambiare un lavandino anziché mettere la lavatoia dove il lavatoio dove vanno a lavarsi le mani 15 persone, devi mettere dei lavandini, lo devi fare. Ricordo a tutti i suoi radioascoltatori che una delle criticità che il Covid ha messo in evidenza era ad esempio la carenza di posti di rianimazione. Un'altra criticità che abbiamo affrontato era il sovrappopolamento delle nostre strutture alberghiere ospedaliere, con un numero di posti letto elevati in nome di un DRG aziendale, e che oggi ha rappresentato una criticità. Ora, questi stessi criteri che sono stati posti in evidenza dal Covid hanno necessariamente trovato la manifestazione drammatica negli hotspot, ma le soluzioni sono identiche, non cambia l'approccio sanitario preventivo alla problematica. Quello che abbiamo messo in opera per i nostri ospedali va messo in opera per gli hotspot. Se lei ha un arresto cardiorespiratorio, tanto all'hotspot di Pozzallo quanto a quello di Lampedusa, dove è ancora più drammatica la situazione, ovviamente lei non può essere soccorso. A Lampedusa non c'è un ospedale, per esempio, ma nel centro stesso mancano quei strumenti di base tecnica che permettono di aggredire un'emergenza. Ma un'emergenza, signori, ma è preventivabile? Ma dirò che è preventivabile nel momento in cui c'hai 1000 uomini che ti arrivano stressati da un viaggio. Io non voglio che succeda, però ecco, tu devi immaginare che possa succedere e quindi devi prevenirla. Sì, prevenirla soprattutto, si sa, d'estate, ormai è da decenni così, no? I centri in estate si affollano, in estate è la bella stagione, quindi il mare è più calmo, ci sono le traversate, è chiaro che a novembre e dicembre magari saremo più tranquilli da questo punto di vista, ma adesso la situazione è abbastanza chiara. Professore, però, dottore, prego. Mi perdoni, voglio dire, più tranquilli, ma relativamente, perché sì, questa favoletta l'ho sentita del stare più tranquilli, ma in realtà è miopia pura, perché non è che c'è soltanto il Covid. Nel momento in cui lei mette anche 82 persone in un centro attrezzato con quelle strutture sanitarie che ho visto io e igienico, anche quelle stanno male, anche quelle si ammalano. Beh, voglio dire, certo, c'è la scarpia, c'è la tubercolosi, non c'è soltanto il Covid, certo, è miopia, certo, è miopia pensare al Covid. Sono patologie importanti che vengono integrate nella nostra popolazione, che sconoscevamo fino a 10 anni fa. Quindi bisogna affrontare radicalmente il problema, e la nazione ha sicuramente le potenzialità e capacità per farlo. No, ma loro anche, anche perché, voglio dire, come dice lei, poi ci sono, poi si dice ci sono malattie che vengono reintrodotte, ma se non viene fatto un presidio sanitario corretto, questo è il rischio. Professor Pomare, io la ringrazio, ripeto, lei insegna medicina legale a Catania, è stato a capo di questa task force Regione Sicilia per le condizioni, valutare le condizioni degli hotspot e centri di prima accoglienza per migranti, e direi che il risultato è una fotografia impietosa di tutto questo. C'è un ascoltatore che dice che domani andrà in piazza, e quindi è inutile, Alpino, che fai finta e guardi, e dice quindi che a me Milano e al suo regista, quindi noi ci becchiamo un bel premio. Giachetti l'ha dato l'ascoltatore, e quindi noi ce lo teniamo. Avete la faccia come il culo. Tu soprattutto Alpino. C'è Giuseppe che ci chiama da Reggio Calabria. Buongiorno Giuseppe, eccoci. Buongiorno a voi, siete davvero ammirabili, è una bella trasmissione. Volevo dire, come ho detto prima, che il ponte e comunque i tunnel e comunque la natura, sì, ci ha dotato di questa bella isola, e comunque la serve incrementare quello che c'è già. Allora, se andiamo a fare queste 1000 persone che lavorano già, andranno dove? Serve incrementare le ferrovie, serve incrementare quello che serve. La Sicilia è abbandonata perché no, si rompe tutto e non si aggiusta nulla. Sì, la Calabria, quindi lei dice, fate, sistemate le cose, le tante cose che ci sono da sistemare, non pensate al ponte. Ma che c'entrano questi passaggi? Sono delle robe che vanno ad arrabbiare. Oramai da anni, da 20 anni, da 30 anni pagano per non fare nulla. Le tornate elettorali che li conosciamo tutti. Allora, io ero a Tropea perché abbiamo villeggiato là. Mi passa una freccia rossa, come che si chiama? La freccia rossa. Però andava a 130, fino a Salerno arriva a 300. Cioè, ma parliamo di che cosa? Perché non incrementare e dare? Allora, con questi soldi che arrivano, perché arriveranno dall'Europa, perché non cioè il nord, vabbè, ormai nord e sud, diciamo di tutto e di più, ma il nord non ha nessun diritto ancora a dire noi. Insomma, lei, Giuseppe dice, sistemate con questi soldi le tante cose che ci sono da sistemare e smettetela di parlare di ponte. Questo la posso riassumerlo così, Giuseppe, il suo intervento. Devo dire che è incredibile, però sta roba del ponte di Messina, cioè ogni tot anni torna, e adesso c'è la commissione per stabilire quale è lo strumento migliore per collegare Sicilia e Calabria. Tu sei il ministro, giustamente, poi dai la stura a che uno ti dica la catapulta. Peraltro l'ha detta il ministro Provenzano. Quindi... Come una catapulta? È ovvio che quello ti dice la fionda, è ovvio che la gente dice la funivia. Cioè, siamo al 2020 del ponte sullo stretto. Adesso anche è stato rilanciato il tunnel, che però forse è stato accantonato. Se ne parla da forse 200 anni, ma se non di più, ma ci sono già ministri all'epoca di Cavour che dicevano di collegare Calabria e Sicilia, e nel 2020 bisogna fare una commissione per stabilire quale sia lo strumento migliore per collegare queste due regioni. È una cosa che, non lo so, sembra, poi io cito sempre Il giorno della marmotta, il film nel quale il protagonista rivive, si sveglia e tutti i giorni rivive lo stesso giorno, sembra davvero di essere in un immenso giorno della marmotta. Pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. light's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Buongiorno Alessandro Milan, Leonardo Manera, Elia da Milano. Beh, per il ponte sullo stretto di Messina forse dobbiamo aspettare di prendere contatto con degli alieni e sperare nella loro compassione e amorevolezza che ci insegnino nuove tecnologie per poter creare questo ponte. Io credo che ormai sia l'unica soluzione. Io proporrei una finivia da Catania a Belluno. È un'idea? Vabbè, è chiaro che poi si scatena questa ironia, non lo so. Leonardo Manera! Buongiorno. Buongiorno. Tu hai detto che bisogna creare una commissione, hai sbagliato. No, è stata creata. Sì, già. Io la definirei task force. Task force. Viviamo nel periodo del task force. Stamattina l'ho scritto poco fa anche su Facebook. A proposito, adesso mi accuseranno di essere negazionista come Vediamo, al solito. Beh, no? Un po' negazionista lo sei. A proposito dell'allarmismo, sì. Rassegna stampa stamattina di Sky in televisione. La giornalista dice: Berlusconi appunto positivo al Covid, sta bene, ma ha la voce un po' affaticata. Vabbè, però è stato ricoverato. Adesso, sì, ma capito. Ho capito, è stato ricoverato, ma a dire ha la voce un po' affaticata, ha 83 anni. Io tutto avrò affaticato a 83 anni, non solo la voce, non ci arriverò, ma tutto ma no, affaticato. Dai, ma perché? Poi ricovero non si capisce se è a scopo precauzionale. Titolo del Corriere della Sera: Berlusconi sta bene, cioè, se non sbaglio, no? Il titolo del Corriere. Lei riferisce, la giornalista, ce l'hai qui il Corriere della Sera? Dai, cosa dice? Però aspetta, dice test rapidi in tutte le scuole. Cosa dice? Mi deve fare andare a cercare. Virus, va bene, non ho più febbre, va bene, non ho più febbre. Questo dice. Non lo so, mi deve far fare andare. Non ho più febbre né dolori, Berlusconi. Ecco, va bene, dice che va bene. E lei sta abbastanza bene. Cioè, mi sembra un po' creare quella puntina di, no? Sì. Di tensione. Adesso non si sa se è ricoverato a scopo precauzionale, sì, o no. Sì. Però sì, a scopo ha la voce un po' affaticata. La cosa sicura è che ha la voce un po' affaticata. E ha dei sintomi del Covid. Questo almeno dicono le agenzie, dicono le agenzie. Va bene. Tu cosa faresti sul ponte, sul ponte, sullo stretto di Messina? Io comincerei con una task force. Sì, quello l'hanno già fatto. E basta, l'importante è quello. Poi non è importante che si realizzi o meno, si faccia o non si faccia. L'importante è occuparsene. È occuparsene. Sì. Ribadisco che è bella l'attesa. È bella l'attesa quando sei a Villa San Giovanni e devi arrivare a Messina. È bello stare lì in attesa, è lì che si consuma la vacanza vera. Cari ascoltatori, mangi... che siete all'ascolto come ieri, quello che ieri era all'ascolto in coda. Cosa ne pensate della bellezza? Cosa mangi? Mangi l'anduia? Il panino, se sei il panino. No, mangi sempre un panino con una bibita in lattina. Sì. Faccio presente al responsabile tecnico di Radio 24, sì, Sandro, sì. Fortunato. Non è lui, cura la, diciamo, il computer, la tecnocura, si occupa di tutta la parte. Sandro Fortunato, faccio presente che la cuffia si sente solo da una parte. Questa è una questione annosa che ci trasciniamo da prima dell'estate. Ce la trascineremo. Non si capisce perché devo sentire solo dall'orecchio sinistro, che a lungo andare questa cosa mi danneggia anche l'udito. Sì. Allora, adesso vogliamo salutare un ospite che è un ragazzo che ha l'ambizione, il sogno, l'aspirazione di fare medicina, come tantissime, come migliaia di italiani che stanno facendo i test per l'ammissione all'università. Federico Maini, buongiorno Federico e grazie di essere qui. Ciao, buongiorno. Allora, diplomato allo scientifico a Pisa. E anche sì. Gioca a calcio. In che squadra? Nel Pisa Ovest. Ma cos'è il Pisa Ovest? Cos'è una società di calcio, ma Manera. Ma no, ma perché dire. Pisa Ovest? È una società minore satellite perché, del Pisa? Perché non staranno a est, non lo so. Sì, perché capito. Si chiama cos'è Pisa il satellite Ovest? Del Pisa? No, Pisa. È una città indipendente. E sarete a ovest di Pisa, vado a intuito. Sì. Vado in tutto. Allora, sarebbe bello il contrario. Pisa Ovest è situata a Pisa Est. Allora smettila, perché Federico già è arrabbiato. Cosa è arrabbiato, è sconsolato, è deluso. Allora, intanto è stata un'estate di studio, immagino. Come ci si prepara al test di medicina? Che poi dopo fanno le domande anche sul Signore degli Anelli, come quest'anno. Ah, guardi, in realtà faccio professioni sanitarie, ma comunque il test è abbastanza simile, sì. Perché volevo provare fisioterapia, comunque okay. Si prepara studiando, perché è tosta comunque, quindi bisogna studiare anche diverse materie, perché c'è un po' di biologia, chimica, matematica, fisica, logica e anche cultura generale. Mm. Succede quindi che sarà stata un'estate di studio, oltre che poi succede quello che non era preventivabile, cioè un compagno di squadra, credo, della squadra risulta positivo. Esatto. E quindi che succede a Federico Maini? E quindi tutta la squadra, ne compreso ovviamente che tutti i ragazzi che si sono allenati giorno e sono venuti quindi a contatto con questo ragazzo, siamo stati tutti isolati, siamo stati messi in quarantena preventiva. Quarantena preventiva, senza sapere nulla, magari non ha nulla lei, non è né positivo. Io no, io come gli altri ragazzi al primo tampone che ci hanno effettuato, sì, due giorni dopo essere stati messi in quarantena, siamo risultati tutti negativi. Per fortuna, direi. Quindi lei è negativo in quarantena preventiva, risultato, si è giocato l'esame di medicina, cioè non, esatto, cioè l'esame per l'ingresso, vabbè, per fisioterapia, comunque insomma, si è giocata la possibilità di perché in remoto non si poteva fare? No, a quanto pare no. Si può, ma è un'ipotesi remota. Sì, e Leonardo Manera fa ancora battute. Adesso io, Federico Maini, lo autorizzo a venire qui a Milano dopo aver passato un'estate di studio, avere questo sogno, doverlo mettere nel cassetto per almeno un anno, accorchiarlo di mazzate il nostro. Ma sentiamo Leonardo invece Manera, qual è la prospettiva. Adesso come pensi di rimediare a questo problema? Adesso, se non verrà concessa a noi, cioè a me e agli altri ragazzi che si trovano nelle stesse condizioni, la possibilità di trovare una maniera alternativa per effettuare comunque il test, e dovrò comunque perdere un anno, perché chiaramente non potendo fare il test non posso entrare a fisioterapia e dovrò accontentarmi, tra virgolette, di andare a un'università che non era la mia scelta, la mia prima scelta. No, devo dire che non lo so, io alzo le mani, perché secondo la logica e le regole è così, però si è pensato a tutto, non si poteva pensare di far fare l'esame in remoto a chi si trova nelle condizioni. Quanti siete? Cioè avete, perché in genere poi si costituiscono magari sfoghi su Facebook, sui social, gente che dice anch'io, ci sono tanti italiani secondo lei in queste condizioni, tanti ragazzi? Allora, noi siamo riusciti a contattare, metterci in contatto, siamo una ventina e ancora stiamo cercando altri ragazzi, perché alcuni sono usciti sui giornali, ma hanno voluto proteggersi mettendo nomi di fantasia, quindi è difficile rintracciarli. Sì. Però sì, siamo un po' in questa condizione, tutti pensiamo che avrebbero potuto pensare anche a noi, ecco. Certo, una situazione alternativa. Io penso, non so, i concorsi pubblici, quelli che non so, sono alcuni, se non sbaglio, sono stati rinviati anche i concorsi pubblici. Ma saranno rinviati, ma io dico, ma uno deve perdere un anno perché ha questa ambizione e per una situazione in cui tra l'altro è negativo in questo, ma anche se fosse positivo, asintomatico, è a casa sua, cioè che male fa se partecipa in remoto al... Non è stata organizzata, ecco, probabilmente quell'ipotesi. Ovvio, non è stata organizzata e chi ci si ritrova si attacca, come si suol dire. No? Al momento sì, questa... speriamo la situazione cambi. Ma la fisioterapia è utile? Sì, lo posso dire di prima persona, perché ci ho avuto a che fare diverse volte, in particolare per le caviglie, sono un po' debole di caviglie, ho avuto diversi problemi, mi è stata molto utile. Anch'io quando ho rotto il malleolo, della caviglia sinistra, ogni tanto mi cede un po', prendo delle distorsioni, e mi dicono che dipende dal fatto che ai tempi, quando ruppi questo malleolo, poi non feci abbastanza fisioterapia. Conferma? Vedi, il buon Manera ha capito, insomma, qual è la situazione con il suo malleolo. Ma è così, Federico, lasciamolo. Oggi è arrivato Ridanciano, il buon Leonardo Manera, non lo so che cos'ha. Intanto Federico Maini, facciamo tanti auguri, ma c'è, se ho capito bene, se ho intuito tra le righe delle risposte, c'è la speranza che si possa rimediare, cioè non è tutto perduto, forse la pressione mediatica, forse le proteste potrebbero portare a fare una sorta di esame di ammissione postumo e da remoto per chi non l'ha fatto? Sì, esatto, stavano parlando, insomma, il Ministero stavano prendendo in considerazione il fatto di aggiungere una data, non so in quale modalità, se di persona o da remoto, spero da remoto perché così permetterebbero anche ai ragazzi che continueranno, per loro sfortuna, ad essere positivi di effettuarlo. Eh sì, perché se non lo fanno da remoto ci saranno... stanno prendendo in considerazione e vedremo poi quale sarà la decisione. Sì, anche perché se non lo fanno in remoto ci sarà ancora la situazione di qualcuno che non si potrà presentare. Va bene, staremo a vedere. Scusa, un'ultima domanda, ma nel caso non potessi fare questo esame, qual è la facoltà di ripiego? Cioè non filosofia, immagino, c'è cioè una cosa simile. Scienze motorie. Simile alla fine o no? Lo so. Sì, è abbastanza simile, qualche esame ce l'ha in comune, ma comunque ecco, preferirei di gran lunga fisioterapia, con tutto il rispetto per scienze motorie. Certo. Va bene, Federico, in bocca al lupo e vedremo, grazie per essere stato qui a raccontarci anche questa vicissitudine. Ieri c'è stato l'esame di ammissione di medicina, effettivamente, e questo è, non tutti sono potuti presentare. Alessandro ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Niente, volevo segnalare solo quello che può succedere in questo paese relativamente ai dipendenti e diciamo alle norme per il Covid. Mi è capitato con una mia dipendente, ma parlo a livello generale e faccio la provocazione. Invito tutti i dipendenti a scegliere un paese di vacanza, ma anche basta un weekend, dove al ritorno sia prevista non il tampone obbligatorio ma la quarantena, per farsi altri 15 giorni di vacanza. Spese del datore di lavoro. È una provocazione, è una provocazione, però lei dice, ma è la verità, cioè mi è capitato. Adesso io, per l'amor del cielo, va bene tutto, ma è più che accusare il lavoratore che si sfrutta, diciamo, un'opportunità, ma qui è la norma che è una follia. Cioè si è scelto solo di fare obbligatoriamente dei tamponi solo a persone che rientravano da due o tre paesi. Quelli considerati paesi considerati più a rischio, però, di diffusione. Sì, però erano a rischio, cioè quello che mi è capitato nel caso specifico, ma sono tanti, c'è un elenco, era pubblicato anche il 7 di agosto nel decreto, dove si evidenziavano già i paesi per i quali avresti dovuto fare poi il rientro da quarantena. Quindi, però un datore di lavoro non può proibire al proprio lavoratore di andare in vacanza dove vuole, però se lui sfrutta questa situazione sa che al ritorno, siccome si comunque... Si fa 14 giorni. Bellissimi 14 giorni a spese del datore di lavoro. D'altra parte si sa che la vacanza per molti è impegnativa più di un lavoro, quindi è giusto riposarsi al rientro. Questo è verissimo. Quando uno torna deve avere quel cuscinetto, no? Prima di ritornare dai colleghi, dal datore di lavoro. Poi secondo me lei è un datore di lavoro molto severo, caro Alessandro. Si sente da lavoro. scherzo ovviamente. No, però certamente c'è anche questo aspetto. Io ho detto la notizia con cui ho aperto, caro Leonardo, tu eri in metropolitana, forse non lo sai, ma è venuta fuori la notizia, cioè la conferma, per cui se uno è positivo, ed è quindi sta a casa, ed è anche se è asintomatico, non può lavorare. Neanche da remoto, appunto, non può fare smart working. No, perché è in malattia. È in malattia. Quindi, puta caso. Dovessero mai, non so, mi viene un colpo di tosse, mi viene una linea di febbre, insomma faccio il tampone e sono positivo, allora potremmo andare in onda, potrei andare in onda con la tecnologia di cui disponiamo grazie a Sandro Fortunati e Danilo Alicino da casa. Ma non posso. Sei pronto a sostenere il grave compito di andare in onda. Ma io so che non mi verrebbe assolutamente affidato questo compito, perché no, la direzione generale direbbe no, Manera è inadatto, non è capace. Quel buffone, sì, quel cialtrone. E allora metterebbero un altro, metterebbero qualcuno, Deborah Rosciani probabilmente. Tu cosa fai in questo caso? Per solidarietà? Anch'io mi astengo. Perché? Certo. Scusa, se non sei perché positivo. In quanto essendo stato qui in studio con te, anch'io dovrei essere positivo, quindi nell'attesa, no, mia volta di fare, no, il tampone. No, e cosa c'è? Ti fanno il tampone, sei negativo? No, non me lo fanno, cioè me lo fanno, ma ci vogliono i tempi. Comunque io diciamo che non si può scindere, bisogna prendere in toto il pacchetto. Quindi cioè, stai già mettendo le mani avanti. Mi metto, la verità, mi stai anche inaugurando un periodo di asintomatica. Mi metto positività. In malattia preventiva. Sì, ecco. Vabbè. Andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Ti rendi conto che il problema è legato all'informazione, il modo con cui viene rimandata l'informazione, e lo vediamo tutti i giorni, ma non solo dai giornalisti, dai politici, da tutti. L'informazione su questo virus è stata formulata in modo da stadio, da tifoseria. Ma ste commissioni che il ministro di turno organizza eccetera, ma ci rendiamo conto che cominciamo a pagare della gente, paghiamo commissioni e poi non producono nulla? Ma sono soldi buttati via. Facciamo un referendum sulle commissioni, così le eliminiamo del tutto. Mon me ci metto io, cagazzuola, il secchio, il cemento a fa sto ponte. Così finiscono questi di fa campagna, sur niente. E namo, dai. Allora, vedi, arriva un messaggio. La differenza in Norvegia, ti dicono sì, vai pure se vai in un paese a rischio, ma la quarantena poi quando torni la copri con le ferie. Questo è un ascoltatore che ci scrive dalla Norvegia, 0047 prefisso. È anche vero che a volte uno va in vacanza e il paese viene definito a rischio, mentre magari è già in vacanza. Questo è vero. Comunque, per rispondere all'ascoltatore, i soldi che si risparmieranno dal taglio dei parlamentari, che presumibilmente ci sarà perché il referendum vinceranno i sì, attenzione, stai entrando in pacondicio, vanno pur messi da qualche altra parte. Chiamate quindi la Scaglioni e fatelo, come no, dire, è garrotare. No, non è che io ve lo dico, che probabilmente a mia sensazione. Ma chi l'ha detto? Ma non dare sensazioni, stai già violando almeno 3-4 norme sulla ma io da privato cittadino, ma non giornalista, non posso dire che secondo no, me no, ma lo dicono tutti i sondaggi. Ma no, non dirlo. Vabbè, non dico niente. Vabbè, quindi volevi dire che quei soldi lì del taglio parlamentare andranno messi da qualche altra parte, quindi presumibilmente in qualche commissione. Ma no, facendo le commissioni, qualche task force. Vuoi utilizzarli in modo produttivo, diciamo? Vabbè. Dai, vai Leo, dopo aver fatto danni sulla par condicio, che adesso rimedieremo non so cosa, non so come, se prenderemo una multa ovviamente ti verrà. Ho detto che è una mia sensazione. Ti verrà decurtata. Va bene, dallo decurtatemi stipendio. Quello che volete, tanto io non ho più niente da non ho più aspettative, affanculo. No, smettila. Allora, tra non molto riprenderà il campionato di calcio senza pubblico. Un campionato di calcio senza pubblico sembrava impossibile, come un divano di poltrone e sofà senza sconti. Eppure nelle ultime giornate di campionato e anche nelle coppe è andato così. Non si può rinunciare al calcio, perché il calcio in un modo o nell'altro ormai è parte fondamentale delle nostre vite. Non tanto per le partite in sé, ma perché il calcio è simbolico e sintomatico della nostra società, perché o sei tifoso del Milan o dell'Inter, della Juve o della Fiorentina, della Roma o della Lazio. Alternative nette, chiare, non puoi essere tifoso dell'Inter però anche un po' della Juve. E questo modello, questo modo di pensare, poco alla volta si è impossessato di tutti i settori della vita. Posizioni nette, chiare, da una parte o dall'altra. Perciò anche sul virus o sei allarmista o sei negazionista. Non esiste una sana via di mezzo. Non puoi essere, per esempio, buonsensista, cioè rispettare le regole, ma senza drammatizzare, come sembra cerchiamo di fare noi qui. No, è necessario che si capisca bene e subito da che parte sei schierato, in modo da avere tifosi e odiatori. Quindi, secondo la vulgata comune, o vai in giro a far la movida mettendo le labbra sulla stessa bottiglia di birra che è transitata da decine di labbra altrui, oppure resti più o meno felicemente in casa cercando di limitare il più possibile i contatti col resto del mondo. Che può essere pericoloso il resto del mondo, ma il mondo, è vero, può essere pericoloso, ma è anche necessario. Ricordo che nell'Odissea, a un certo punto, la dea Calipso, innamorata di Ulisse, gli propone di rimanere per sempre nella sua isola, offrendogli in cambio immortalità. Immortalità in cambio di una specie di gabbia dorata, con la dea Calipso che lo ama disperatamente, Ulisse. Ma Ulisse rifiuta, e nel periodo in cui si trova sull'isola, 7 anni, poco alla volta Ulisse si deprime, ha gli occhi pieni di lacrime, perché non vede l'ora di poter tornare alla vita e di affrontare i pericoli del mare. Diciamo che Ulisse per 7 anni con Calipso ha vissuto il lockdown, fino a quando gli dei, Zeus, forse con una specie di DPCM, gli ha consentito di riprendere la vita normale. Però, episodi Calipso a parte, anche sul virus ormai ci siamo ideologicamente schierati da una parte o dall'altra, a destra o a sinistra, senza considerare invece che il virus non fa distinzioni di parte politica. Certo, in alcuni casi non si possono avere posizioni intermedie, tipo sulla TAV. O sei favorevole o sei contrario, anche se sarebbe interessante una posizione che dice facciamo una galleria piccolina che quasi non si vede. La velocità non proprio alta, ma altina, un po' più di quella che c'è adesso. Ma la cosa curiosa è questa presa di posizione così netta sulle questioni pubbliche contrasta invece sulla tendenza nel privato, dove le scelte nette tendono a diminuire, per esempio nei rapporti di coppia. Ci sono molte persone che invece di stabilire un rapporto chiaro e preciso preferiscono frequentarsi un po' sì e un po' no, in amicizia di letto. Pensate se anche coi genitori fossimo costretti a scegliere. Scegli o la mamma o il papà. Quando si mangia, o solo primi o solo secondi, invece no. Nella vita privata quasi sempre tutti noi abbiamo scelte abbastanza sfumate, intermedie, di sano buon senso. E invece nella vita pubblica, forse per compensazione, pretendiamo il contrario, o di qua o di là. Anche sul virus si ragiona come i ultras di calcio, i Conte Boys da una parte e la fossa dei Meloni dall'altra, per dire. Io sul virus non ho posizioni nette, però in fondo la penso come Ulisse. Pur con tutte le cautele necessarie bisogna andare incontro al mondo, incontro alla vita. La penso così perché a casa mia non c'è nessuna dea Calipso innamorata di me e che soprattutto mi promette l'immortalità. Alla ricerca della dea Calipso di Manera. C'è Maria Cristina da Como. Buongiorno, sì, Maria Cristina. Eccoci. Buongiorno. Senta, io volevo solo fare un appunto. Prima sì. Sentivo che dicevate appunto che la ministra Vincheri, questo mi è sfuggito questo passaggio, diceva che hanno istituito una, o istituiranno una commissione per quanto riguarda l'hanno lo studio. L'hanno istituita. L'hanno istituita per il ponte di Messina. Ora, io ho 52 anni, ritengo di essere una persona purtroppo, mio malgrado, oggigiorno molto responsabile e quant'altro, e riterrei opportuno avere un altro tipo di carattere, purtroppo mi ritrovo questo, nel senso che io vi chiedo, dov'è finita quella cara e vecchia assunzione di responsabilità che vigeva un tempo, dove comunque, in cui comunque la parola aveva solo un senso, eccetera, eccetera. Sento veramente da parte di coloro che sono preposte alle istituzioni dire degli strafalcioni o di quelle cose che non hanno assolutamente senso, e io vorrei proprio per un senso civico con il quale noi della mia generazione siamo cresciuti, io e altri ovviamente, presumo anche voi, nel senso sentire altro tipo di parole, e questo mi dispiace sì. Perché ritengo che anche da parte di persone che politicamente hanno una storia, una struttura diciamo fondata, davvero sento parole che non hanno senso. Mi dispiace. Vabbè, un po' uno scoramento da cittadina ed elettrice rispetto alla classe politica generale, mi sembra di capire. Va bene, Maria Cristina, grazie per il suo intervento. La commissione, devo dire, io sono rimasto deluso solo del fatto che nella commissione istituita non ci sia l'ingegnere Sacca che abbiamo avuto ospite ieri, il che vuol dire, come scrive Repubblica, che forse il premier Conte si è disamorato del tunnel nella stessa velocità in cui si era innamorato. Pazienza, insomma, era un bel progettino. Io farei così. Sì. Leo risolve facile. Per contemperare tutte le esigenze. Dai. Facciamo il tunnel, ma teniamo anche i traghetti. Così chi vuole godere dell'attesa va col traghetto. E chi vuole il tunnel? E chi a questo punto anche il ponte. Come tunnel, c'è anche ponte e traghetti. Sì, facciamo anche il ponte. Come sì. La variante di Valico, no? Sì. C'è chi ha fretta e le automobili prendono la variante e gli altri fanno la panoramica. Tunnel, ponte e traghetti. Così puoi scegliere, certo. Ti dà la possibilità di scelta. Tra Leo poco, risolve facile. Leo risolve facile, ha risolto anche questa. Vai. Dai Manera, quinto sito quater. Uno, nessuno, 100 Milan. È ovvio che anche riducendo per esempio il numero di parlamentari, secondo me è una cosa importante che va detta, anche sui fenomeni di corruzione, è ovvio che un Parlamento ridotto in termini di numeri è anche un Parlamento che può essere controllato meglio. Questo è il video che sta girando tantissimo. No, ma va bene, ma io la non lettura, ho capito. Aspetta, diciamo di che Manuel Tuzzi del Movimento 5 Stelle, un Parlamento con meno persone può essere controllato meglio. Io sono sicuro che lui volesse. Buona dire... fede. Era in buona fede. Sì, dai, voleva dire controllato dai cittadini, controllato appunto come corruzione, però questo scivolone è uscito male. Controllato meglio da chi? Insomma. Dai, adesso però durerà la bellezza di un giorno questo tormentone che gira con questo Manuel Tuzzi del Movimento 5 Stelle. Hai presente Stelle, chi è? Ce l'hai presente? Se non sbaglio è quello con i capelli lunghi, giovane. Se non sbaglio, Vediamo un po', ma pensate cosa devo fare quasi a 50 anni, Tuzzi. Manuel Tuzzi, cercare la foto di Manuel Tuzzi, no, è giovane ma non ha i capelli, non ha i capelli lunghi, no, vediamo. Forse se li è tagliati, no, giacca, cravatta. Beh, rispetto a me li ha lunghi. L'ha detta, va bene, hai detto. Rispetto, anche rispetto a me un po' gli anni. Sì. Vabbè, dai. La seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, qui caro Leonardo Manera, dobbiamo salutare ora un personaggio che molti conoscono come modella, come personaggio televisivo, magari un po' meno persone la conoscono come giocatrice di basket in Serie B, perché insomma sicuramente la platea di pubblico è minore. Valentina Vignali, buongiorno Valentina, grazie. Ciao ragazzi, qui. buongiorno a tutti. Allora, Valentina Vignali, che è finita protagonista a suo malgrado, perché certo non ricercava la notorietà per questa vicenda che è avvenuta nelle Isole Eolie, credo, nelle Isole Eolie quest'estate. Sì, esatto. Insomma, eravate in giro, amici, fidanzato, avete ingaggiato uno skipper, come si fa per fare un giro. Che è successo? Hai scoperto che questo skipper di nascosto... Esatto, ci aveva scattato una serie di foto, sai, uno in barca comunque si rilassa, sì. Paghi uno spazio privato anche per stare tranquillo, eccetera, e questa persona ci ha scattato, a me e le mie amiche, eravamo altre due ragazze, delle foto magari mentre una ragazza si piegava in borsa per prendere una cosa, oppure mentre dormivi che sei in posizioni comunque incontrollate con le gambe aperte, primi piani di parti intime, sedere, cose del genere, una cosa molto squallida, e ce ne siamo accorti e io insomma non sono una molto tranquilla quando mi arrabbio e ho letto della reazione quando se ne è accorto dentro. Sentite bene cosa ha fatto quando si è accorto, dice dammi un attimo il cellulare, e ti sei accorta delle foto, cosa è successo? Lui non ha indugiato particolarmente, cioè questa cosa mi ha fatto capire chi era colpevole, perché quando una persona tu gli chiedi il cellulare lui ti dice scusa ma che cosa vuoi da me? Invece ce l'ha dato praticamente quasi subito, sì. E inizialmente ha provato a cancellarle, ma è una cosa che è durata, non lo so, 10 secondi. Dopodiché ci ha messo il telefono in mano, abbiamo visto tutta questa schifezza. Tra l'altro le ha inoltrate a un gruppo WhatsApp con altre persone, quindi... che è un aggravante del reato che ha fatto. E niente, io mi sono fatta ridare immediatamente i soldi e gli ho buttato il telefono in mare. Gli ha buttato il telefono in mare? Sì, nel porto, quindi andasse a riprenderlo a nuoto facendo l'apnea. Ma adesso io rido. In realtà certo. Ho sorriso sul gesto, ma è una cosa, è una violazione veramente, è una violenza molto, molto brutta e schifosa, nel senso che ovviamente uno si sente proprio a quel punto di essere stato in balia di questo schifo, ecco. Sì, ma soprattutto perché purtroppo questi fatti, anche se sono estremamente gravi, dividono molto il pubblico, nel senso ovviamente c'è tante persone che ci hanno dimostrato solidarietà, cioè mi ha scritto la sindaca Virginia Raggi, che è una donna comunque che io stimo, eccetera, però d'altro canto ci sono tante persone che danno la colpa a noi ragazze, ma voi non potete mettervi i costumi a brasiliana o non potete mettervi a prendere il sole con il all'aria perché voi provocate, cioè questo è un comportamento che io condanno nella maniera più assoluta, di difendere l'indifendibile. Mi fa paura come cosa, perché se tu riesci a difendere una persona che ha fatto una cosa del genere, per me sei capace di tutto. Quindi io condannerò finché avrò voce comportamenti simili, annessi, e chi li difende. Sì, perché l'atteggiamento di molti è stato dire d'altronde anche tu Valentina spesso fai le foto, non so, in bikini. Ma guarda, io ho fatto la copertina di Playboy addirittura, quindi un conto è farlo come scelta. Come scelta, certo, personale. La differenza infatti è il consenso, perché e oltretutto pure le foto che uno pubblica in posa col costume, che sono foto artistiche, anche dove c'è un pizzico di provocazione, perché no? Perché una modella lavora con il suo corpo, però non c'entrano assolutamente nulla con delle foto dove uno sta dormendo a gambe aperte o dove uno è piegato a raccogliere una cosa e tu mi fotografi, insomma, in posizioni strane, non è neanche paragonabile. Però purtroppo vanno fatte queste specifiche, perché certe persone difendono il comportamento di lui, e per me è follia. D'altra parte credo che sia successo, che succeda spesso, che persone più o meno note vengono fotografate senza ma che se ne accorgano. In realtà, perché quando io ne ho parlato, io ho subito immediatamente deciso di parlarne sui social, perché ho detto io non posso permettere che ad altre ragazze succeda questo. La persona va denunciata, è una prassi che comunque è più o meno lunga, però io devo agire nell'immediato, perché questa persona non può farlo ad altre ragazze, perché adesso... Parliamoci chiaro, io ho una forte personalità, ho un carattere molto duro, eccetera, ma magari un'altra persona sta zitta perché ha paura, perché è timida, perché è debole e non esiste al mondo. Quindi ho deciso di parlarne sui social e diverse ragazze hanno scritto sia a me sia alle mie amiche che questa persona non era la prima volta, cioè che faceva robe del genere. Ecco. Quindi è appunto un recidivo, e io questo giro non posso e non voglio stare zitta. Ma anche perché cosa, cioè che tipo di denuncia, perché cosa ha denunciato? Per violazione della privacy? Non lo so, forse anche qualcosa di più grave. Io non ho denunciato perché sto aspettando di tornare a Roma a parlarne col mio avvocato, perché quando succede un fatto del genere si hanno fino a 90 giorni dalla data dell'accaduto per denunciarlo, quindi con la massima calma, anche perché adesso sono in vacanza, insomma, e non volevo rovinarmi queste giornate o perderle magari 6-7 ore in caserma dei carabinieri. Detto questo, adesso io i reati precisi non li so, però violazione della privacy, reati a livello di pornografia e robe del genere, con l'aggravante che sono state anche diffuse, certo, perché noi le abbiamo trovate su un gruppo WhatsApp, quindi queste immagini hanno fatto un giro. Sì, e ricordiamolo a tutti, agli ascoltatori, che anche diffonderle, cioè se uno le riceve e le gira un amico perché dice guarda cosa mi è arrivato, è un reato anche quello. Assolutamente sì. Non bisogna farle circolare, perché altrimenti è un reato anche quello, e mi sembra giusto. E vabbè, che storia brutta, insomma, devo dire. Cara Valentina, noi ti ringraziamo, insomma, buone vacanze per quello che rimane come scampolo. Il messaggio credo sia anche a dire appunto a tutte le ragazze, se capita, di non avere paura di denunciare. Le ragazze, anche i ragazzi. Ragazzi. A me capitò. Capitò anche a me. Sto scherzando. Correva l'anno 2005. Cioè, incredibile. Ma chi è che ti fa una foto di che cosa? Lasciami raccontare. Correva l'anno 2005. Ero in vacanza in Sardegna con la mia fidanzata. Di allora, sì. E venni paparazzato da Novella 2000, a mia insaputa, non me ne ero assolutamente accorto. C'era una barca al largo che faceva le foto in spiaggia. Celebre comico dello Zelig. No. Novella 2000, prima di mandare, di pubblicare il servizio, telefonò alla mia agenzia dicendo che ero stato paparazzato con queste foto e chiedendo anche molto educatamente chiedendo molto educatamente se a me dava fastidio che venissero pubblicate. E l'articolo quindi tu hai dato il consenso? Io ho dato, come no, è l'unica cosa che mi ha reso felice nella vita, essere paparazzato in Sardegna con una fidanzata, tra l'altro una bella ragazza. Quindi mia madre è stata felice, l'unica volta in cui mia madre è stata felice di me. Ho detto: sei andato su Novella 2000, bravo Leo, ce l'hai fatta. Io ero felicissimo, non vedevo l'ora di dare il consenso. Ed ero insieme all'ex giocatore dell'Inter Galante, sì, e a un altro grande, che non ricordo, sotto un grande titolo che era Lezione di seduzione. È stata la soddisfazione più bella della mia si vita. Si riferivano alla tua fidanzata, secondo me, Lezione di seduzione, non a te. Incredibilmente ero io insieme a Galante e a quest'altro di cui quindi, porterò l'articolo, quindi, qui ce l'ho ancora. Galante e un Mister X sono maestri in seduzione, secondo nel 2005, nel 2005. Però, nel 2005. Va bene, ringraziamo ancora Valentina Vignali, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, sono le 10:19 minuti. Adesso, caro Leonardo, parliamo di un argomento che ti sta tanto a cuore. So che tu hai anche questa passione dei tempi di Icaro, anche tu vuoi avvicinarmi al sole. Di volare, di staccarti da terra. C'è stato un periodo in cui sognavo sempre di notte di volare. Classica interpretazione dei sogni, credo, mi sfida Luchetti, non bisogna scomodare Freud, ma credo che sia una questione legata all'appagamento sessuale. Sai com'era il sogno? Per volare facevo così, era bellissimo. Nel sogno alzavo un ginocchio. Sì. E poco alla volta cominciavo un po' a sollevarmi, poi alzavo anche l'altro, mettevo David Copperfield per te. Con le due ginocchia cominciavo a sollevarmi e poi planavo ed erano dei belli, era bellissimo, una sensazione meravigliosa, l'ho fatta tipo per 2 o 3 mesi sempre. Poi confermami comunque sfida Luchetti, grazie interpretazione dei sogni, si vola e si sta bene, grazie. In attesa di questo partiamo da quest'audio. Tower, American 1997, we just passed a guy in a jetpack. American 1997, ok, thank you. Were they up here, left side or right side? Allora, queste sono le comunicazioni tra un volo di linea che sta atterrando a Los Angeles e la torre di controllo. Il pilota a bordo dice alla torre di controllo: attenzione, perché stiamo per atterrare, ma vicino a noi abbiamo visto un ragazzo con il jetpack. Che cos'è il jetpack? Allora, intanto salutiamo Luca Perri, nostro astrofisico di fiducia. Buongiorno Luca. Buongiorno. Ben trovato Luca Perri. Allora, grazie. Il jetpack è uno strumento che uno si può mettere sulle spalle con un motore che va a benzina, eccetera, e che permette a una persona di volare. Ma è vero che ho letto che si può arrivare fino a 4.000 e rotti metri? Sì, 4.500, almeno la versione attuale, di cui si hanno dei dati certi, perché in realtà ufficialmente a Los Angeles ci dovrebbe essere una azienda, diciamo, che costruisce dei jetpack, che però ha dichiarato che quello che svolazzava non era colpa loro. E quindi ovviamente non si sa come altro si possa entrare in contatto e avere un jetpack, visto che appunto sono poche al momento le agenzie che lo sviluppano. Secondo i dati dell'ultima versione attualmente in sviluppo, che si chiama JB11, la velocità è di circa 200 km orari, quella raggiungibile, e la quota è 4.500 metri. Però giusto per avere un'idea, il JB9, che era di 2 anni fa circa, aveva una quota massima di 2 km e 100 km l'ora di velocità, quindi in realtà la tecnologia si sta sviluppando moltissimo. Sì, attenzione, non è che andate a comprarla al supermercato, se ho capito. Sì, no, esatto, non si sa. Se non arriva dalla Jetpack Aviation, cioè questa azienda, non si sa come si possa insomma entrare in contatto e recuperare con questo jetpack, anche perché qualcuno ha detto vabbè, ma allora ci sarà un'altra azienda che li sta sviluppando, però i jetpack sono estremamente rumorosi e quindi si nota se qualcuno sta sviluppando praticamente un aereo da spalla. Vabbè, quindi, diciamo, magari questa azienda, siccome ha messo potenzialmente in difficoltà un paio di atterraggi, magari adesso non entriamo nella questione, magari stanno un po' sminuendo e si sono resi conto. Certo che è incredibile, ma ma non si muore assiderati a quell'altezza? No, dai, 4.000. È più o meno, allora, 4.500 metri è più o meno la quota da cui si fa un lancio col paracadute normalmente. Io sono salito in rifugio a 3.000 metri, c'era un caldo boia quest'estate, vabbè, certo, però bisogna anche considerare la velocità. Sì, certo. È vero, infatti, quindi proprio secondo me l'analogia principale è un lancio col paracadute, si arriva a 180 km orari, questo è poco più di 190 e la quota ad esempio quando a me è capitato di lanciarmi col paracadute era 4300 metri, questo è 4500, quindi più o meno siamo lì. Sì, poi non, magari uno non arriva al limite, certo, ma perché uno deve prendere il jetpack e andare nei cieli di Los Angeles? Cioè, questa è la domanda alla quale non c'è risposta forse. Questa, no, allora al momento praticamente una delle poche grosse entità, diciamo enti interessati al jetpack è la Marina Militare statunitense con cui appunto questa azienda ha un contratto perché per fare estrazione o salvataggio in zone rischiose, però ad esempio gli Stati Uniti col governo degli Stati Uniti, in particolare le forze armate, hanno per decenni pensato se sviluppare o no i jetpack e poi erano arrivati alla soluzione che l'elicottero è più pratico e più funzionale, quindi l'avevano scartato. Sì. Però sono veramente decenni che ci lavorano, sempre a Los Angeles, visto che si parla di questa città. Nel 1984 per l'inaugurazione delle Olimpiadi avevano fatto volare un tizio con un jetpack sopra lo stadio, quindi appunto è un progetto di decenni, si sviluppa sempre di più la tecnologia, al momento siamo arrivati a dei risultati notevoli, tra cui ad esempio usare il diesel normale per far funzionare il jetpack, perché originariamente invece erano dei razzi con del propellente solido, liquido, ma ad esempio uno dei propellenti era il perossido di idrogeno che si usa per i razzi veri, cioè che è un attimo pericoloso, più pericoloso del kerosene. Però il problema è se uno ha bisogno di fare rifornimento mentre è in aria. S'arrangia. Tra l'altro il tempo di volo è limitato, 10 minuti massimo, ma più probabilmente di meno, perché dipende poi dal peso della persona che si deve trasportare e se io faccio estrazione, quindi sto portando via anche qualcun altro, magari volo per 4-5 minuti. Quindi... No, tra l'altro io voglio ricordare Luca Perri, l'abbiamo presentato qui con tutti i suoi vari libri, aveva scritto Astro Bufale, contro le bufale che circolano nel mondo dell'astrofisica, Partenze a razzo, devo dire, quando l'abbiamo presentato qui c'è gente ancora che ci scrive, vuol sapere tutto. Ha raccontato Luca Perri tutto ciò che c'è da sapere prima di diventare un astronauta e come ricorda anche Leonardo Manera abbia raccontato che la vita dell'astronauta è una vita d'inferno, cioè parliamoci proprio assolutamente quello che succede, ti viene l'osteoporosi, dormi con un ventilatore perché sennò ti accumula l'anidride carbonica, è un disastro, cioè praticamente fare l'astronauta altro che bel mondo romantico e dorato, è un disastro. Però leggevo oggi, per esempio, su Repubblica l'intervista a Jorge Vago, il capo scienziato della missione ExoMars dell'ESA. Insomma, andiamo nel 2022 a scoprire se c'è vita su Marte. Quindi Leonardo Manera strabuzza gli occhi perché dice: ma perché non ce ne stiamo tranquilli in piazza Udine, sereni? E invece andiamo a vedere se c'è vita su Marte, giusto? Sì, almeno iniziamo ad andare a vedere, nel senso che ExoMars, che peraltro doveva partire quest'anno, poi in realtà causa Covid è stato slittato al 2022 perché la finestra di lancio buona per Marte è circa ogni 2 anni e qualche mese. E quindi la speranza è lanciare questa sonda che vada a cercare tracce di vita, ma in realtà vada anche a creare dei campioni che poi possano essere riportati sulla Terra, con tutta una serie di problematiche legate, visto che appunto siamo in periodo pandemia, legate a potenziali forme di vita marziane che noi possiamo portarci sulla Terra e che dobbiamo isolare in ogni modo perché potrebbero essere anche pericolose, e quindi si sta sviluppando anche pre-Covid questo, in realtà tutta una serie di tecnologie per cercare di contenere delle potenziali forme di vita. Cioè andiamo a fare una cosa che sappiamo già che potrebbe creare problemi, è come quando tua madre dice lascia stare che poi è pericoloso, e invece noi andiamo apposta a metterci nei guai. L'idea è che la scienza deve prevedere ogni possibile cosa che può andare male, e quindi così oppure... come si era prevista una pandemia, ma poi nessuno ci ha fatto caso, nello stesso modo noi andiamo a prevedere tutti i potenziali pericoli di una missione del genere. Oppure Manera pessimista dice andiamo a metterci nei guai. No, non l'ho detto io, ha detto lui che potenzialmente può essere pericoloso. L'astrofisico Jerry ci può spiegare quali però possibili vantaggi potremmo ottenere scoprendo delle cose. Capiamo quali sono i possibili vantaggi, per esempio, di analizzare delle particelle provenienti da Marte. Quali potrebbero essere? Tanto per dirne una, l'essere umano non sa definire vita, cioè la vita non la sappiamo definire, tuttora stiamo discutendo se i virus sono o no forme di vita, perché noi abbiamo iniziato a studiare la vita con quella che conoscevamo e che vedevamo meglio, e quindi abbiamo in testa una nostra definizione che però ci stiamo rendendo conto che è sempre più fallace, e quindi scoprire forme di vita su altri mondi ci potrebbero aiutare a capire meglio cosa è vita, e quindi ad esempio in chiave virus capire se sono roba viva o no. Ma in generale gli adattamenti evolutivi che possono aver avuto degli esseri viventi a condizioni estreme sono sempre interessanti, noi continuiamo sempre a studiarli perché l'idea è che poi ci ricaviamo qualcosa. Banalmente, noi al momento per l'esplorazione spaziale profonda stiamo cercando di capire quanto è possibile ridurre il metabolismo umano per andare in quello che viene chiamato generalmente criosonno, diciamo, nella fantascienza, eccetera. Noi abbiamo qualche prova, diciamo, del fatto che gli uomini possano andare in criosonno, perché è successo per caso a degli alpinisti, ad esempio sull'Everest, che sono stati considerati morti e poi invece si sono risvegliati. Però non abbiamo ancora ben capito come fare, e di solito studiare gli adattamenti a condizioni estreme di altre forme di vita può perché avere, se ho capito bene, Marte è una temperatura, leggo sempre da Repubblica, da 60 gradi sotto zero costante. Quindi sì, si può arrivare tranquillamente anche ai meno 80, ma anche meno. Sostanzialmente è molto simile all'ambiente antartico, ma con il problema ulteriore che c'è una bassissima pressione, quindi l'atmosfera è estremamente rarefatta, è un po' come se andassimo a 35 km di quota sulla Terra. Quindi freddissimo e zero ossigeno. Esatto, sino ossigeno praticamente inesistente, molta più anidride carbonica e appunto atmosfera rarefatta che, ad esempio, visto che noi vorremmo coltivare su Marte tra le varie cose, è un altro problema da tenere in considerazione. Su Marte stupendo, cioè, vai dall'ortolano, dice, dove vengono queste barbabietole? Non è a chilometro zero, diciamo. Non è proprio a chilometro zero. Beh, abbiamo scoperto che ad esempio i pomodori crescono meglio su Marte piuttosto che sulla Terra, quindi per avere un ottimo sugo Marte. Pelati Marte invece di San Marzano. Vabbè, dai, si scherza anche. Ma Luca Perri, che ringraziamo e salutiamo, ci regala sempre delle chicche, secondo me, di sapienza, altro che quelle che snoccioli tu, caro Leonardo. Io questa settimana ho snocciolato delle grandi perle, anche questa mattina, della dea Calipso. Sì. Sfida Luchetti, sognare di volare è, come al solito per Freud, come dicevo, un simbolo sessuale. Sì, ma per Freud tutto era simbolo sessuale. Non è che... Per Jung, invece, il volo è il desiderio di liberarsi da ogni tipo di restrizione che la vita ci impone. Ecco, quindi... io condivido più questa seconda interpretazione. Sei junghiano, sì. Junghiano. Va bene, dai, guarda che losco figuro che puoi oggi vedere in faccia. Caspita, che mascherina elegante. Sembra un bandito. Una mascherina rosso-nera, tra l'altro. Ah, grande. Non è rosso, non ha i bordi rossi. Di Mauro Meazza. Vedi che ha tradito adesso che il Milan sta facendo una buona campagna acquisti, immediatamente ha cambiato parrocchia. Tic-tac. Bravo Mauro Meazza, c'è spazio anche per te tra i fratelli. L'Inter fa un mercato low cost, il Milan invece si appresta a vincere il campionato e Mauro Meazza indossa la mascherina rossonera. Questa è la coerenza di Mauro Meazza. Va bene. Borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Conte si è disamorato del tunnel perché sta per proporci il tunnel sospeso. Ma nera, non c'è neanche una di quelle cose che raccontate alla radio che non è successo a te. Strano, mamma mia, sei un fenomeno. Secondo l'interpretazione dei sogni di Freud, volare nel sogno, appunto, con le ginocchia alzate è sinonimo di non fare sesso da decenni. Allora, Allora, Leonardo il fenomeno. Mi suggeriva, no? A proposito dei pomodori su Marte, mi suggeriva il signor Mario Corsi che invece dei pomodori San Marzano ci saranno i pomodori San Marziano. Sembrano. Sì. Grazie Mario Corsi. Grazie, scrivimi tutti i giorni le battute. Dai, così, che io ormai sono inaridito da quel punto di vista. Attenzione, Mario, perché da Roma vorrei dare la parola a Punita, ma è giusto il nome, Punita? Sì, Punita. Ah, buongiorno. Punita come castigata. Come castigata, ah. Bello. Perché è un nome indiano, io sono della Malesia, di origine indiana, ecco. Ma sono in Italia da 50 anni. Stupendo, prego. Allora, cosa significa punita? Qual è il significato in italiano? Pura. Pura, che bello. Punita in tamil è pura. Pura, bello. Allora, io ogni volta che parlate del ponte di Messina mi fate arrabbiare, mi fate incazzare. Non perché ne parliamo più, signora, no, basta. Scusa, non è Punita. Possibile, cioè, io sono in Italia da 50 anni, sono venuta nel 71. Nel 70 Pirelli, che se non mi sbaglio è italiano, hanno costruito un ponte che collegava la penisola malesiana all'isola di Penang, che è dove sono nata io, che sono più di 13 chilometri. E l'ha fatto Pirelli e sta in mezzo all'oceano. Quindi dici, quindi perché non si riesce a fare di 4 chilometri? Tutto questo è una cosa politica, è il fondo cassa per le imprese che vogliono avere i soldi dallo Stato, tutto lì, punto. Quindi vabbè, Punita ci dà questa lettura dall'esperienza propria, insomma, certo, com'è l'isola dove è nata? Penang. È l'isola più bella del mondo. Va bene, ottimo, grazie Punita da Roma con queste origini malesi. Vedi, caro Leonardo, il nostro pubblico è così vasto e ha una cultura talmente smisurata, per esempio. Però sai che anche in italiano, se tu prendi Punita, ha un altro significato in italiano, ma impunito vuol dire non pur, che continua a combinarne, quindi anche in italiano può avere quel tipo. È il momento di cultura. No, è un'ipotesi. Oggi sei un pochino sceso di gradino rispetto ai giorni precedenti. Con la Deo Calypso. Comunque, noi abbiamo parlato di Freud. Parlato di Jung, sì. Ma cosa è meglio di tutto questo? Meglio di Freud, meglio di Jung per l'interpretazione dei sogni, insomma. Anacleto che ci ha chiamato. Aspetta che io vado via un attimo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Aspetta, ce l'ha con te. Oh, non andare via, stammi a sentire. Innanzitutto quel sogno che alzavi le ginocchia, secondo me non è un sogno. Se ti alzavi i gomiti, perché... avevi bevuto e ti sognavi di alzare i gomiti, no i ginocchi, il sesso, le ginocchia, non i ginocchi, in Toscana si dice ginocchi. Stai a sentire, poi se indovini dove sono ora, quando vengo a Milano ti regalo una bottiglia di vino buono. Sarai in un bar a tracannare a bere dei grandi alcolici. No, sono a Recanto a Borgabugiano a prendere il vino. Vabbè, siamo lì più o meno. Hai sempre, sempre di vino si tratta. È una bella signora che la serve, una bella signora, ma non vuol parlare perché l'ho detto: vieni, si saluta Milan, Maria lì e Leonardo Manera. Dice: no, mi vergogno alla radio. Insomma, via, io se non vuol parlare non mi posso mai obbligare. Ma non devi dire che siamo alla radio, devi mentire come sei solito fare. Di che sei. Sei un carcere da una carogna, ragazzi. Cos'è che è? Se ti tira un carcere da una carogna, proprio. Capito? È un detto. È un detto popolare. della chiesina. No, toscano, no, della chiesina. Toscano. Vabbè, la chiesina sta in Toscana, quindi non è che è un detto. Ma il detto. Come sta il direttore di banca? Sta bene. Mi hanno sbloccato il conto, sicché ora... Perché te l'avevano bloccato? Cioè? Ride a 30 studenti. Ma Anacleto deve avere una vita. Ma perché a te hanno mai bloccato il conto, Leonardo? Bloccato il profilo Twitter. Volta ero andato in rosso e mi è arrivata subito la comunicazione della banca di andare a coprire il rosso, perché altrimenti mi avrebbero bloccato il conto. Questo sì mi è successo. Però non hanno bloccato senza avvertirmi. Siamo così, Maria, non siamo quattrinai come voi Milano, che non la vivete, voi siete per il lavoro siete numeri uno. ma per le cazzate noi toscani siamo più forti, non c'è niente da fare, hai capito Maria? Anacleto, sai che l'anno scorso ero in Toscana, non mi ricordo più dove ero esattamente. Ah, me l'hai già no, detto. No, l'anno scorso, non quest'estate, l'estate eri scorsa. Eri a Montignoso. Esatto, a Montignoso. Ero con mio figlio, sono entrato in un bar e non sono potuto rimanere in quel bar con mio figlio perché il livello di parolacce era arrivata a una tale saturazione che mi vergognavo per mio figlio. Bestemmie, sì, soprattutto bestemmie, devo dire, anche creative, comunque grandi bestemmie. Sono dovuto uscire da quel bar con mio figlio. Non prendere spunto, fai il bravo, Maria. Io non bestemmio, perché guarda. È proprio, guarda. E che ci fai in un bar della Toscana allora? Un bar della Toscana qui ci si diverte, capito? È tutto affare così. Ti racconto un aneddoto proprio per farti. Quando facevo il vigile, quando facevo il vigile a Montecatini, c'era il mio amico Nello Guerfi, detto professore, che non voleva pigliare le multe, l'aveva annoia, e tutte le mattine quando andava a lavorare sulla macchina avevo la Uno bianca, no? Quella. Sì. Ci trovavo sul sedile un cartone di vino o bianco o rosso del Corvo di Sala Paruta e la multa. E io gli facevo, professore, ma e la levo la multa, ma tutte le volte se mi dai un cartone di vino ci diverti, no? Sì, a me pazienza. Sì, poi si chiama corruzione, però Anacleto. Lui mi diceva, no Paolo, no, capito? Ma te la levo la multa, professore, no? E lui lascia tutte le volte in modo che a Natale facevo. Cioè, voi immaginatevi Anacleto vigile urbano a Montecatini. Avrà fatto in vita sua 50 multe e ne avrà tolte 70. A fronte ovviamente di ricompensi di e benefici di vario tipo. Ciao Anacleto, fai il bravo. Andrea Verbagna da Stefano, buongiorno Stefano. Buongiorno a voi e complimenti per la bella trasmissione. Grazie. Che ci dice Stefano? No, va bene anche così, chiuderei per qui. Per me l'intervento è perfetto, è compiuto. No. Perché in radio, mi scusi un momento, in radio dicono sempre no, non dica complimenti, è inutile, perdiamo tempo. No, invece, dite complimenti e chiudiamola lì. Perché ragione, no, complimenti, ragione. No, perdiamo tempo. No, è bello proprio quando fanno i complimenti. Volevo complimentarvi perché mi piace la vostra... Bello, veniamo alle critiche adesso. No, nessuna critica, anzi, assolutamente no. Io volevo riferirmi a quella telefonata di quella ragazza che era stata ripresa in barca dallo skipper. Sì, Valentina Vignali. Sì, volevo riferirmi un attimino a quell'episodio lì, no? Infatti lei diceva che doveva valutare ancora per quale reato, oltre alla violazione della privacy. Ebbene, il reato ci sarebbe 612 ter. In poche parole, dopo quello del 612 bis, che sarebbe gli atti persecutori. E cosa dice? Aspetta. 612 ter dice diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Ma è abbastanza, anche perché è un Il cosiddetto revenge porn, no? Di quello di cui si parla tanto. Bravissimo, Ma poi essendo un delitto ha anche pene superiori rispetto ad altri reati, nel senso che è piuttosto corposo, no? Il sessualmente esplicito ci può anche stare, il fatto che venga ripresa, non so, in mutandine o che chiaro, bisogni... ci ha fatto capire che erano foto in pose, certo, inequivocabili. Ma ecco, 612 ter, che in poche parole poi non ci sono solo i 90 giorni, ma addirittura c'ha 6 mesi di tempo per poter fare querela alla persona. Vabbè. E a querela di parte. Stefano, ma lei è avvocato o è appassionato della materia? No, io ho fatto 37 anni il maresciallo dei carabinieri. Quindi conosce, ne ha ricevute tante di denunce di questo tipo? A dire la verità, qualcuna sì, non proprio tante, ma qualcuna sì, perché c'è ancora tante persone che si vergognano di venire a denunciare questo tipo di... E poi è anche una novità, è una novità da è una novità, quindi, è una novità, perché è stato incluso anche dopo il 612 bis, che sarebbe gli atti persecutori, lo stalking in poche parole, no? Perfetto. Posso chiedere un'ultima cosa? Qual è la cosa più bella che le è capitata nella sua vita di carabiniere? Se le è capitato qualcosa di bello? Immagino sì. Una cosa bella che ricorda con piacere. Invogli le persone a diventare carabinieri. Diventa carabiniere perché? Ma perché ci vuole passione, ci vuole tanta passione, ci vuole la volontà di fare questa professione. È vero che le donne subiscono il fascino della divisa anche del carabiniere? Un mito da sfatare. Stefano da Verbania, anche con un pizzico di amarezza o diplomazia, non lo so, la ringraziamo moltissimo. No, vedi, ci ha aiutato a capire. Allora, 612 ter, va bene, poi Valentina Vignale andrà dal suo avvocato che chiaramente lo saprà. Andiamo al traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Allora signori, è tempo per noi, le vacanze sono un ricordo, triste ricordo, abbiamo fatto solo 6 micragnose settimane di sosta. E, ma c'è chi invece vuole andare in vacanza e può andare in vacanza, chi ha la possibilità ora? E beh, è tornato con noi il signor Francesco Vagone per darvi dei consigli. Che bello, già ti mette allegria questa... Cari amici di Radio 24, benvenuti nello spazio di Vagone Tour International. Un logopedista, devo dire che non ha funzionato tantissimo. L'agenzia Fiaggi per i fiaggiatori che non si accontentano delle solite mete. Quest'anno molti di voi hanno scelto di rimanere in Italia, allora sono qui per suggerirvi qualche altra destinazione da scoprire nella nostra bella finisola. Ma io lo vedo, non ha problemi di dentatura. Assolutamente, però. Non mi ha mai fatto nessuno notare questa sua supposizione. Allora, la nostra bella penisola a partire da Beronzi Superiore, una graziosa località montano balneare lacustre, dove spendere il vostro tempo e il vostro denaro. Allora, Beronzi Superiore è un piccolo gioiello del nostro paese, ma inspiegabilmente non ancora invaso dal turismo di massa. È una delle poche destinazioni al mondo libere dal coronavirus, perché gli unici assembramenti a Beronzi sono di zanzare. Una volta a Beronzi si è fermato un grande divo del cinema a bordo della sua motocicletta, ma non si sa per quale motivo, appena visto il cartello Beronzi, la motocicletta è ripartita automaticamente. A Beronzi Superiore gusterete una vacanza entusiasmante come tua suocera che arriva a sorpresa e si ferma per 2 settimane. E allora perché non cogliere questa opportunità? Ma partiamo dai grandi vantaggi dedicati ai viaggiatori di Vagone Tour International. Chi sceglie di visitare Beronzi in questa stagione potrà approfittare dell'esclusiva promozione Vendemmia a Beronzi. C'è la vendemmia, bello. È una simpatica gara da fare con amici. Bisogna schiacciare l'uva dentro a una botte, nella quale sono stati simpaticamente immessi anche dei chiodi. È terribile questa cosa, scusa. Ma perché? Vince chi riesce ad avere meno lacerazioni sulla pianta del piede e avrà la bella vincita di 1 euro da spendere negli esercizi commerciali di Beronzi. 1 euro per i chiodi? Che miseria. Alcuni anche arrugginiti, rischi il tetano. Però è il fascino della sorpresa di Beronzi. Ma scopriamo le straordinarie attrazioni di Beronzi. La prima è Oreste. L'uomo con le sopracciglia fortissime, soprannominato Forestino. Quando Oreste ha detto a una ragazza: "Hai degli occhi bellissimi", lei ha risposto: "Anche a me piacerebbe vedere i tuoi". Se piove, Oreste non si bagna la faccia. Sì, vabbè. A tavola Oreste deve legarsi le sopracciglia con un mollettone, altrimenti finiscono nel piatto. Che schifo. Una volta Oreste voleva sfoltirsi le sopracciglia, ma ha dovuto chiedere prima permessi al comune di Beronzi Superiore. Sì. Quando Oreste chiede alla moglie: "Hai visto le mie ciabatte?", lei gli risponde: "Hai guardato nelle sopracciglia?" Forestino, detto Forestino. La leggenda dice che Jimi Hendrix per i suoi capelli si sia ispirato alle sopracciglia di Oreste. A Beronzi. Ma a Beronzi Superiore le attrazioni sono moltissime. Per esempio la ballerina di lap dance con la sciatica. La donna bellissima che però ha il mignolino del piede che esce dai sandali di svariati centimetri. La chiromante è analfabeta che non sa leggere la mano, la guarda ma senza proferire parola. E le sorprese a Beronzi Superiore non finiscono mai, allora prenotate subito la vostra vacanza con Fagone Tour International. Please visit Italy. We're the best country in the world. No, perché di solito lei concludeva con il bel visit. Please visit Beronzi. Mostly visit Beronzi, the best country, beautiful in Italy. In Italy. Che ricordiamo dove è sita, dove è collocata. Beronzi Superiore è esattamente sotto Beronzi Inferiore. Ah, sì, certo. Perché... C'è questa discrasia, distonia, di... Anche disistima nei suoi confronti. Devo dire anche questa cosa. Ma è perché lei non ha mai visitato Beronzi? No, me ne guardo bene. Guardi, non ci sono delle attrazioni che finora mi hanno particolarmente convinto a partire da... Allora, da le darò un'altra attrazione che lei vorrà gustare, sì. Non a Beronzi, ma nella ridente località di Porto Tolle. Domani sera ci sarà lo spettacolo di Leonardo Manera. Attenzione, alle ore 21. Porto Tolle. Dove esattamente? Porto Tolle. Sì, ma dove esattamente? Nel porto. No, sarà nel porto di Porto Tolle. No. O è nel porto o è a Tolle di Porto Tolle. Alle ore 21 domani, 21. Molto interessante. Porto Tolle nel Delta del Po, potete fare un fiaccio nel Delta del Po. In un teatro? In piazza. In quale piazza? Piazza di Porto Tolle. La piazza, va andata a Porto Tolle, uno va a Porto Tolle e chiede alle 21, questo domani, alle 21 lo spettacolo del signor Leonardo Manera. Dove lo posso, in quale delle 150 piazze, sfida Luchetti, in quale delle 150 piazze, andiamo su leonardomanera.it, lo scopriremo lì nella sezione. Non è ancora aggiornato il sito, è in costruzione. Ragazzi, è in costruzione, io non lo so, sfida Luchetti, non riesce a capire in quale delle... Famosa per le piazze Porto Tolle, peraltro, ce ne sono tantissime e non si riesce a capire in quale di queste piazze ci sarà montato un palco per lo spettacolo di Leonardo Manera. Sento Miriam Luchetti che, sudata col sudore della fronte, sente la sigla finale, cerca in tutti i modi di capire. Allora, quale... vediamo esattamente in quale piazza. Location. Location! Allora, via Cecuracchio. Non è vero. Sono sincero. Allora, via Cecuracchio a Porto Tolle, lo spettacolo. Ma non è una piazza. Sì. In una via ci stanno 10 persone. Via Cecuracchio, Porto Tolle, ore 22, no 21, con Leonardo Manera. Ne abbiamo azzeccata meno. 57esima Fiera del Delto. Del Delta. Dalle 20:30 sul palco Fresh Magna Band, e dalle 22 in via Cecuracchio Leonardo Manera. Ah, ma è quello che mi ha mandato anche Federico Taddia, una cosa, è quella che c'è anche la sessione di Zumba all'interno di quella serata. C'è anche una sessione di Zumba. Federico Taddia un giorno mi ha mandato, due giorni fa, dicendo che c'è anche una sessione di Zumba. Ma la tieni tu? Vi aspettiamo in via Cecuracchio a Porto Tolle. È vero, conferma anche Miriam Luchetti, piazza Cicerucchio, tra Largo Europa e la piazza del mercato di Catiepolo. Lì, domani. Come hai detto da me poco fa. Ore 22. Va bene, noi ci troviamo invece lunedì alle 9, fate i bravi. Domani alle 9, domani mattina alle 9, no alle 10 a me! Di fumo, siamo sdraiati sul caprame, quelle stelle sono vere, almeno qui non ci sparerà nessuno. E Carnevale si sta sbellicando, e io che lo sfanculo e poi mi aggiungo che è venerdì. Qualunque cosa sarà il minore dei mali. È venerdì, non ci rompete i coglioni. Qualunque cosa, mia bella sposa, il venerdì resta fuori. Che è venerdì. Uno, nessuno. nessuno, nessuno, 100.000.